troverò, se senso il mondo rovescio. Ammasso ste lenzuola, rosso sangue questa notte. Faccio il polso, metto tutto a posto questa notte. Proietto nuove lotte, riprometto che poi troverò, se senso il mondo rovescio. Strada, siamo peggio dei cani di strada. È la razza umana sovrana, è la nostra stessa razza umana che ci porta a questa legge sovrana. In strada siamo peggio dei cani di strada, è la razza umana sovrana, è la nostra stessa razza umana che ci porta a questa legge sovrana. C'è chi vive nel mondo della TV fumando tanta gincana, facendosi imbucare merda varia. Basta ascoltare il TG e si dice io ne so di più. Io vedo il macio, non ne posso più. Il TG si abitua alla violenza, il nostro occhio adesso varia. Questo è un danno mentale, perché presto l'abitudine ci porterà ad odiare. Danno solo quello che pensi che potresti ottenere. Puttane soldi, già pensate che questo sia potere. Ma nella vita reale non è come fra nella pubblicità. Non sei tu che tieni in questa vita qua. Viviamo nel male, dopo le delusioni ci fa pensare che dobbiamo unirci in guerra e armarci e pensare per noi stessi, egoismo totale. In strada siamo peggio dei cani di strada, è la razza umana sovrana, è la nostra stessa razza umana che ci porta a questa legge sovrana. In strada siamo peggio dei cani di strada, è la razza umana sovrana, è la nostra stessa razza umana che ci porta a questa legge sovrana. Cresciuto per la strada, cane di strada, senza collare, senza padrone, senza nessuno che gli bada. Se solo l'asfalto sapesse parlare, sarei sicuramente fottuto e non starei qui a cantare. Quando cresci per la strada di lezioni ne impari più che all'università dopo 74 esami. Vita vera, non di scena, dove la gente mena come dentro di un'arena. E ti va bene se torni a casa poi per cena, dove girare con il ferro è divenuta un'abitudine. Ci si meraviglia ancora se sei in grado poi di ridere. La strada come madre, un insegnante che ti forma, ti trasforma, ti insegna a nasconderti nell'ombra. Si cerca soldi facili, ma di facile non c'è niente, solo lo stress che sale e conquista la tua mente. Mi guardi da fuori, sembro tranquillo e sereno, ma se tagli le mie vene fuori esce solo il mio veleno. In strada siamo peggio dei cani di strada, è la razza umana sovrana, è la nostra stessa razza umana che ci porta a questa legge sovrana. In strada siamo peggio dei cani di strada, è la razza umana sovrana, è la nostra stessa razza umana che ci porta a questa legge sovrana. In TV, nei giornali si parla di alieni rettiliani, non capisco più se questa razza umana o se siamo noi l'estraneo della nostra stessa terra, della nostra razza umana. Ci hanno contaminato il cuore, le menti coltivanti noi frutti marci. Siamo confusi, feriti nella fiducia, come delle vittime colpiti nei campi minati, dispersi con la malattia che ci strada. Siamo peggio dei cani di strada, è la razza umana sovrana, è la nostra stessa razza umana che ci porta a questa legge sovrana. In strada siamo peggio dei cani di strada, è la razza umana sovrana, è la nostra stessa razza.